Questo brano era Retribution dei Behind Enemy Lines, band statunitense, ed è la sigla iniziale di questo programma che è Zardins Magnetics, in diretta radiofonica ogni giovedì dai studi di radio Onde Furlane, e andrà avanti fino alle 21:30. Ora andiamo all'ascolto di questa band di Viterbo, loro sono gli Unburn. E questo è un loro 7 pollici uscito nel 2017 che si chiama Apoi Calypse. Loro sono gli Unborn. The killers are eating the flesh of the people they murder. Civil defense authorities have told newsmen that murder victims show evidence of having been partially devoured by their murderers. The medical Yeah. Picchiamo sulla pressa e ci martellano, ma resistiamo. Letture a ruota libera e rotta di collo. No Green Pass, certo, ma anche no capitalismo, no patriarcato, no Dio, no frontiere, no sbirri, no Stato. È difficile inserirsi in un discorso pubblico in maniera chiara quando il mondo della comunicazione ci ha addestrate ormai e instupidite a scegliere e o gridare solo dei sì e dei no, esattamente come il sistema binario delle macchine che governano le nostre esistenze, come le tifoserie di uno stadio. E quindi dietro a uno slogan tanto immediato quanto ridotto come un no Green Pass si possono raccogliere dozzine di sfumature diversissime, anche opposte tra loro, e ci permettiamo di mettere in guardia quante, sinceramente, scendono in strada contro questa ennesima misura di controllo sbirresco che nulla ha a che vedere con lo star bene. Se il metodo di organizzazione tramite social network può rendere queste iniziative anche estremamente orizzontali, esempi come le rivolte dopo l'assassinio di George Floyd negli USA ne sono un esempio, d'altro canto la vaghezza del web permette a politicanti, capipopolo, eccetera, di mimetizzarsi. La nostra scelta e proposta rimane comunque vedersi, parlarsi, conoscersi senza schermi. È questo il caso dei vari partiti sovranisti e fascisti, Forza Nuova, che si fanno chiamare vomitevolmente i patrioti ora, Fratelli d'Italia e Casa Pound in primis, oltre alla Lega quando si traveste da comitato civico, che cavalcano, cercando di monopolizzarla, la protesta contro il regime militar-sanitario. Da parte nostra la realtà è molto più complessa di un derby tra Novax e Sivax o altre strumentali riduzioni, tanto complessa quanto drammaticamente semplice. Il Green Pass è solo l'ultimo, per ora, tassello di un sistema di controllo capillare che affonda le sue radici in molti decenni or sono. La ristrutturazione in atto non ha inventato nulla, ha accelerato i tempi. Per quanto ci riguarda, contrastare un singolo provvedimento oppressivo può essere un passo per rompere l'inerzia generale, ma se ci si fermasse a questo, senza mettere in discussione tutto l'apparato che questa repressione genera, sarebbe una cantonata e rafforzerebbe gli opportunisti e le opportuniste della melma politica. Sappiamo bene che finché esisterà il capitalismo, sia esso di Stato o globalista, esisteranno miseria, guerre, devastazioni ambientali, epidemie, sfruttamento dell'umano sull'umano e su altri animali. Non facciamo fronte unito con chi questo capitalismo, magari con il tricolore, lo difende da sempre e dopo aver fatto la voce grossa in piazza, se gli va bene, si siederà ai tavoli delle trattative. Finché gli sbirri ammazzeranno nelle strade e nelle galere, finché gli eserciti massacreranno per depredare territori, finché la guerra del patriarcato ammazzerà e terrorizzerà donne e individui non normati, finché sarà la tecnologia a dominare le nostre vite, impoverendoci e sottraendoci capacità e saperi, saremo in guerra contro questo esistente. Tutto, forse una lotta senza fine. Contro ogni controllo, contro ogni legge, contro ogni autorità, per l'autodeterminazione degli individui e delle collettività. Lotta senza tregua al sistema tecno-industriale, fucina suprema di ogni nostro incubo. Auto-organizzazione, azione diretta, solidarietà conflittuale. Mentre prima abbiamo ascoltato la band di Viterbo, The Unburn, da loro 7 pollici datato 2017, adesso siamo passati a questa band inglese della metà, oltre la metà degli anni 80, i Ripcord. Dicono che l'occhio umano sia fatto per guardare a orizzonti lontani, dicono. E dicono anche che se l'occhio umano guarda sempre per terra o la parete del palazzo di fronte, la capacità visiva si atrofizzi notevolmente. La lotta di classe e di genere è una guerra, lo sapevamo già, ma ora il potere lo ha dichiarato esplicitamente e usa metodi, linguaggi, sistemi e pratiche conseguenti, non solo contro tutte e tutti quelle e quelli che non si adeguano subito ed esplicitamente ai suoi desiderata, ma costruendo per tutti un immaginario sociale in guerra costante. Per poter agire e rispondere adeguatamente in una guerra bisogna conoscere e analizzare la situazione sul campo, ma bisogna anche capire che cosa si propone il nemico. Le linee di tendenza del suo operare, bisogna cioè guardare lontano. La società è stata trasformata dalle fondamenta in pochi anni e questo processo ha subito un'accelerazione molto forte negli ultimi tempi, sia con la scusa dell'emergenza Covid-19, sia perché il cambiamento tecnologico si attua con una velocità fino a poco tempo fa impensabile. La patriarcalizzazione della società si sta imponendo come strumento fortissimo di trasformazione dell'organizzazione sociale. Che cosa intendiamo per patriarcalizzazione? La costruzione del modello donna capitalistico si è basato su alcuni snodi fondamentali: infantilizzazione, espropriazione delle capacità e dei saperi, colpevolizzazione, assoggettamento economico, legislazione di dipendenza, esaltazione delle capacità di servire, della cura e della dedizione, fino alle teorizzazioni scientifiche sulla minorità. Ma il capitalismo non è stato e non è sempre uguale a se stesso. Cambiano gli obiettivi di medio e lungo termine, cambiano le modalità di organizzazione interna, cambia la con le classi subalterne, pur restando immutato il principio dell'accumulazione del profitto. Questo viene modulato a seconda dei rapporti di forza, sia all'interno della classe borghese, sia con i subalterni e le subalterne. E ogni cambiamento politico, ideologico, economico si trasforma in metabolismo sociale. Il patriarcato non è qualcosa che si aggira per il mondo distribuendo, non si sa per quale motivo, violenza e coercizione. È molto più semplicemente un modello economico costruito per un ottimale sfruttamento degli individui messi al lavoro, perché la sua organizzazione produttiva piramidale, gerarchica e sessuata permette una notevole possibilità di accumulazione fin dai tempi del passaggio da un'economia di caccia e raccolta a quella imperniata sull'allevamento e l'agricoltura. Chi accumula è vincente, passa l'inverno senza morire di stenti e sconfigge i nemici. E così il modello patriarcale ha poi giustificato se stesso con miti e leggende, religioni, norme e leggi, usi e costumi a supporto di un'organizzazione di sfruttamento che doveva passare per naturale. Operativamente e concettualmente si è dimostrato molto affine e molto utile al capitalismo, che lo ha assunto da subito, accentuandone tutte le caratteristiche di specializzazione e gerarchia e traendone grandi vantaggi. La specializzazione dei ruoli sessuati, la creazione della famiglia mononucleare in cui la gerarchia della monocellula metabolizzava la società tutta e solo l'aspetto più elementare e semplice di come il patriarcato sia stato strutturante nella modificazione della società, nel passaggio alla costruzione sociale capitalistica. Il corpo è la nostra fabbrica, la famiglia è la nostra azienda, il lavoro di cura e riproduttivo è un lavoro non pagato a cui siamo spinte con il ricatto affettivo. Non esiste distinzione tra tempo del lavoro e tempo libero. Dobbiamo essere sempre disponibili, dobbiamo riconoscere il nostro ruolo ed esserne appagate, poiché solo così potremo essere felici, potremo dare un senso pieno alla nostra esistenza. Lo sfruttamento patriarcale ci espropria alla fine anche della nostra emotività. Dobbiamo provare solo i sentimenti che sono stabiliti. Il neoliberismo ha esteso questi dispositivi di sfruttamento oltre la famiglia, oltre il lavoro riproduttivo, ha patriarcalizzato il lavoro salariato. Ma il neoliberismo vuole anche altro, un mettersi in gioco continuamente per dimostrare quanto si è bravi e brave, un'attesa continua del riconoscimento del merito e quindi una continua dipendenza dal giudizio. L'ossessione valutativa, portato dell'ideologia meritocratica, viene naturalizzata, spingendo uomini e donne a riconoscere affettivamente la filiera gerarchica. Accettazione supina della propria inadeguatezza e quindi dei rimproveri che ci vengono mossi, delle umiliazioni a cui siamo tutte e tutti quotidianamente costretti, della concorrenzialità con i propri simili, una disponibilità ad assumere la scala di valori vincente e quindi a stigmatizzare tutti quelli che si comportano in maniera deviante. Ma anche questo, come donne, è un meccanismo che conosciamo bene. Da sempre noi donne dobbiamo dimostrare di essere brave, di essere all'altezza. Il giudizio altrui ha sempre contato moltissimo, lo sguardo maschile sicuramente, ma anche quello delle altre donne, a cui è stato attribuito il compito di cani da guardia del sistema, portato a termine stigmatizzando tutte le altre donne che non accettano la norma, la normalità, che non vogliono rientrare nei ranghi della scala di valori codificata. Nel mondo del lavoro salariato, poi, il nostro impegno nel dimostrare quanto valiamo si è addirittura centuplicato. Come in famiglia, anche negli altri luoghi di lavoro, dobbiamo accettare rimproveri e rimbrotti, perché chi li fa sa meglio di noi qual è il nostro bene. Ci costringono a interiorizzare il senso della nostra inadeguatezza. È un nostro difetto atavico, proprio perché in fondo non siamo in grado di scegliere il meglio per noi. E come hanno potuto ottenere da noi tutto questo? Attraverso la specializzazione dei ruoli, la santificazione dell'autorità, la continua affermazione della logica del possesso, la retorica della responsabilità e del sacrificio, spingendoci ad introiettare la legalità con la minaccia dello stigma sociale, del ricatto affettivo ed economico, della repressione poliziesca. In altri termini, hanno normalizzato e naturalizzato lo sfruttamento, l'oppressione, la mortificazione, la degradazione. La descrizione del nostro presente, costruito sulle gerarchie di genere, classe e razza, è diventata prescrizione del presente. We'll be right back. Le donne potrebbero smascherare questi meccanismi perché la loro oppressione millenaria fornisce loro gli strumenti diretti per capire la sostanza delle scelte neoliberiste. La necessità di demistificare la meritocrazia, di destabilizzare la filiera gerarchica, di destituire l'autoritarismo non solo nei rapporti interpersonali, ma anche in quelli lavorativi, pubblici, istituzionali, dovrebbe far parte prima di tutto del patrimonio di autodifesa delle donne. La destituzione della logica legalitaria, che è stata fondamento dell'oppressione del genere femminile, dovrebbe essere in automatico parte costitutiva non solo del percorso di liberazione, ma anche di ogni più piccola e più futile rivendicazione che riguardi il nostro vivere. Se c'è un posizionamento che dovrebbe essere parte integrante del sentire di ogni donna, è proprio la contrarietà, non contrattabile, nei riguardi di imposizione di stigma e divieti, regole e costrizioni. Il compito politico e l'obiettivo dell'abolizione del patriarcato non può che accompagnarsi al rifiuto del concetto di educazione, ma fare proprio quello di liberazione. Non dobbiamo certo essere noi quelle che impongono nuove regole e stigma e divieti. Non siamo noi che dobbiamo educare, bensì liberare. Fight for your mind, el libertario. Existence profane. Animal. Ta morale, le visage pâle revient pour la crucifixion orale. Sans le poison du bocal, comme une balle, rien ne retient. Nouvel assaut sur les remparts de l'ordre moral. Tous les prêcheurs, les emballeurs de la Bible et les vers de sang du Coran sont bien calés dans ma cible. Ça sent la déflagration de poudre entre la Mecque et le Vatican. Tant que les curtons recruteront des putes en prêche sur ma finance, changerai pas ce que mon viseur scrute. Je resterai Newman, bombe en puissance. Il faut faire sauter des églises pour que s'élève notre conscience. Il faut que les minarets se détruisent pour briser l'esclavage des consciences. On sera l'essence qui se fait attirer. On sera la poudre quand les loups dansent. On sera le peuple dans la matrice. À cause d'une profane existence, athéisme militant. Essence du désenchantement, trop de mensonges et au bûcher, trop de militants. On n'a pas oublié McCarthy, l'activiste fasciste protestant. On n'a pas oublié la peine insulte saoudite, les tortures en prison, l'interdiction d'être non pratiquant qu'en France. Ed è proprio questo armamentario di soggezione e di controllo che il sistema ha trasferito e sta trasferendo a tutta la società e la cui funzione è diventata esplicita ed eclatante durante la cosiddetta pandemia. L'individuo spinto a prendere coscienza della propria incapacità e limitatezza viene infantilizzato e non può fare altro che affidarsi a qualcosa di superiore e di più saggio che è lo Stato. E lo Stato usa lo scientismo con cui ha stretto da tempo un patto di sangue e di reciproco supporto per ottenere quella patina di neutralità che lo pone super partes e inattaccabile. Lo Stato neoliberista è uno Stato etico, si muove come un padre padrone, decide qual è il nostro bene e il nostro male, perché le persone sarebbero infantili, incapaci di decidere in maniera autonoma, come sono sempre state considerate le donne, costrette quindi ad aver bisogno di una guida e di un tutore, di un marito, di un padre, di un fratello o dello Stato. Ora l'emancipazionismo ha sdoganato una loro indipendenza in maniera fittizia e fuorviante, perché non sono solo loro ad essere considerate infantili ed incapaci di decidere della propria vita, ma le persone tutte, donne ricomprese. Alcuni uomini non lo hanno capito, altri lo hanno capito troppo tardi, perché non erano abituati a subire questo tipo di trattamento. Sono rimasti spiazzati, si sono comportati come bambini che non hanno cognizione piena dell'uso che i grandi fanno di loro. Le donne invece avrebbero avuto gli strumenti per capire e per un momento hanno avuto anche la possibilità di travolgere il pensiero unico, smascherandolo. Ma molte di quelle che avrebbero potuto si sono vendute per un piatto di lenticchie, per essere partecipi di una torta che non è la loro, ma viene loro gentilmente concessa. E in questa delirante necessità di riconoscimento hanno permesso al patriarcato di dilagare nell'asservimento di tutti gli strati subalterni. Molti leggono l'attuale distruzione e privatizzazione dei servizi pubblici e del welfare state come risultato del principio neoliberista per cui lo Stato deve fare un passo indietro rispetto all'intervento nel sociale e auspicano un nuovo percorso di intervento statale. Ma lo Stato non si è affatto tirato indietro dal sociale, ha invece modificato e specializzato il suo ruolo assumendo quello repressivo e di controllo a tutto campo, finalizzato ad una modificazione strutturale della società. Non è un caso che i servizi sociali abbiano ormai assunto connotati di tipo poliziesco. Il capitalismo ha sempre accarezzato la speranza di poter avere degli schiavi di nuovo conio, una schiavitù volontaria di umani che si assoggettano per scelta, che consapevolmente si rendono conto della bontà del sistema che li guida. Quello che è successo e sta succedendo con l'emergenza pandemica non è altro che questo, è la verifica da parte del potere della capacità e disponibilità all'assoggettamento volontario dei subalterni e delle subalterne. Il neoliberismo ha la pretesa di appropriarsi della vita e della morte degli individui, di gestirle come meglio è utile all'estrazione di plusvalore. Della morte si è già impadronito con la dichiarazione della cosiddetta morte cerebrale, una morte non effettiva ma dichiarata a tavolino, funzionale alla sperimentazione e al business degli espianti trapianti e che ribadisce soprattutto che lo Stato si arroga il diritto di dichiarare se una persona è morta o è viva. Ma si è appropriato anche dei riti della morte e ha espropriato le persone anche della decisione di come, dove, quando e con chi morire. Questa pretesa è diventata esplicitamente violenta in questi mesi di dichiarata emergenza. Ma il neoliberismo si sta appropriando della vita fin nei più reconditi anfratti. L'asservimento della ricerca scientifica ai suoi scopi, la trasformazione della medicina in lucroso affare, la creazione di uno scientismo funzionale agli interessi del capitale ha permesso il dispiegarsi di tutta una serie di passaggi propagandati come essenziali per il nostro benessere, la nostra tutela e la nostra felicità, che porteranno il capitalismo a creare esseri umani a seconda dei suoi desideri e obiettivi. Le sperimentazioni sull'inseminazione artificiale, la creazione della vita in provetta, le manipolazioni genetiche, il controllo e le modifiche del DNA, la clonazione non sono altro che questo, ma anche il decidere chi può avere un posto nella società e chi invece ne è espulso, decretando quale essere umano è inutile e destinato a morire il prima possibile di stenti. E chi decide di mettersi fuori e contro è necessario che si ponga un problema tattico ed uno strategico. Il problema tattico riguarda riuscire a intercettare le varie anime del dissenso, mettere insieme tutti e tutte quelle e quelli che sentono sulla loro pelle la vessazione, il ricatto, l'ingiustizia, anche in maniera istintiva, spoliticizzata, elementare. Non si tratta di interclassismo, perché è compito di quello che rimane della sinistra antagonista e della sua coscienza dare le risposte perché un dissenso variegato e istintivo si trasformi in una lotta contro la società del capitale. Significa creare delle bande di mutuo soccorso che permettano il sostegno economico e di gruppo a chi rifiuta le regole violentemente imposte e il ricatto a tutto campo, sia materiale che mentale e affettivo. Chi rimane senza stipendio deve essere sostenuto e sostenuta. Chi vuole ribellarsi deve trovare sponda. I piccoli gruppi, che nella nostra pratica femminista abbiamo verificato come molto efficaci nella lotta politica, possono essere trasferiti anche nelle relazioni sociali. Ogni gruppo creerà i propri strumenti, ogni gruppo si industrierà per smontare i cardini del neoliberismo, ogni gruppo non lotterà solo per sé, ma lottando per destituire i momenti fondanti di questa società, si costituirà come parte di un progetto generale. Non esistono metodi precostituiti, esiste il bagaglio esperienziale messo in comune, l'immediatezza del soccorso, la garanzia del gruppo, la presenza effettiva. Le persone disorientate e avvilite devono poter trovare dei luoghi altri in cui riconoscersi e ritrovarsi fuori dai circuiti del potere. Non ci interessano affatto i luoghi della cultura ufficiale, non ci interessano i cinema, le mostre, i locali, le rassegne, i convegni, i congressi, le presentazioni, le palestre, i ristoranti, i centri sociali, non ci interessano i mercati, i supermercati, gli ipermercati, i centri commerciali, le case delle donne che chiedono permessi, documenti, lascia passare. Saranno nostri i luoghi in cui incontrarsi e produrre cultura e vita viva e vissuta. Sarà questa vita viva e vissuta a essere vita vera, a diventare cultura, formazione politica, strumento di alterità e liberazione. Sottofondo stiamo ascoltando questa band francese che credo, se la dico giusta, è Cox Bomba, e comunque anche tutti i brani che abbiamo ascoltato in precedenza fanno parte di una compilation che è uscita in Venezuela che si chiama El Libertario. Io potrei anche farvi un elenco di tutti i brani che abbiamo ascoltato, ma in realtà li abbiamo ascoltati in sottofondo durante l'intervento e in parte, perciò sinceramente non ci azzeccherei quelle abbiamo ascoltato di più. Comunque è una compilation uscita per come ho detto, per la creazione, la nascita di questo infoshop in Venezuela, di ovviamente Matrice Anarchica, e ha fatto questa compilation per raccogliere fondi, dove hanno partecipato ben 32 band a livello internazionale. E tra l'altro questo, volevo anche dire che questa compilation è datata 2008. e siete sempre all'ascolto di Zardins Magnetics e di queste letture a ruota libera contro il Green Pass, contro lo stato d'emergenza e contro il tecnodominio. Siamo sotto ricatto, se non ti vaccini non puoi più far niente. E se anche fosse vero, forse prima facevi tranquillamente quello che volevi senza obblighi, divieti, vessazioni, carte, passaporti, documenti, lasciapassare, tangenti e corruzioni? Forse che quando c'è un qualsiasi governo istituzionale, anche socialdemocratico, puoi fare liberamente quello che ti sembra giusto? E quindi, per praticare le lotte, aspetti prima il benestare delle autorità? Questo è un alzare bandiera bianca, ancor prima che la battaglia sia cominciata, semplicemente perché il nemico si è schierato e ha detto «Bau, io mordo». Se è per questo, lo sapevamo già. Va detto che nel mondo del lavoro sono sicuramente state introdotte gravi ritorsioni. Spostarsi, viaggiare e usufruire dei servizi essenziali sarà progressivamente sempre più difficile. Lo è già per chi è vaccinato. Figuriamoci per chi non lo è. Col susseguirsi dei decreti legge si sta consolidando e codificando la strategia per imporre il vaccino coattivamente. E per alcune categorie lo è già. Ad esempio per quanto riguarda il personale dei servizi sanitari e sociali. Per la scuola e da domani per tutti. Per questi ultimi si sta cercando di uniformare le sanzioni che prima venivano comminate a muzzo, spesso in totale illegalità, dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali e dalle varie aziende pubbliche o private. Il discorso comunque ruota sempre attorno alla considerazione astratta che se non ti vaccini non puoi avere contatti col pubblico perché non sei immunizzato, quindi l'azienda deve trovarti una mansione adeguata se questa mai ci fosse, ma siccome non c'è per adesso ti sospendo, poi vedrò di trovare un modo per licenziarti. La pressione coercitiva è forte, ma i resistenti refrattari stanno cercando di generare vertenze sindacali sul tema del diritto al lavoro e un seppur minimale dibattito pubblico sulle libertà imprescindibili e inalienabili. Questo crea anche inquietudini nel mondo del lavoro, insomma, una grana abbastanza difficile per tutti da rigirarsi tra le mani democraticamente, governo, sindacati, padroni. Tuttavia è più che probabile che nella deriva securitaria repressiva presa da questa società si andrà verso provvedimenti sempre più escludenti per i renitenti al vaccino, siano essi obbligati per legge o semplicemente ricattati con l'esclusione da alcune libertà fondamentali e dagli stessi mezzi di sussistenza. Se non ci si oppone, qui si va velocemente verso l'apartheid vaccinale, possibile apripista a tutti gli apartheid immaginabili. E allora, perché arrendersi ancora prima che il nemico abbia consolidato e codificato la sua strategia oppressiva? E perché non lottare, mettere in atto forme e pratiche di resistenza, come sembrerebbe logico di fronte ad ogni sopruso? Certo, le lotte non sono mai facili, sono dure e rischiose, ma se non ci si prova nemmeno, accade proprio questo, resa incondizionata a priori. We'll be right back. Un elemento senz'altro inedito nella gestione dell'epidemia di Covid-19 è l'impiego mediatico del termine complottismo, riferito a qualsiasi tesi che metta in discussione le verità ufficiali. Basti citare la relazione dei servizi segreti italiani per l'anno 2020, in cui la parola compare per definire sia le tesi dell'estrema destra sia quelle dell'antagonismo. Un agente segreto che dà del complottista a qualcuno non può essere rubricato frettolosamente come una mera coincidenza, né può essere scambiato per una barzelletta che non fa ridere. Così come merita una spiegazione il fatto che a essere maggiormente tacciate di complottismo siano state le idee e le azioni contro le antenne 5G e le prese di posizione contro le vaccinazioni di massa. Del rapporto tra deforestazione, allevamenti industriali e salto di specie dei virus, all'inizio, poi sempre meno, si poteva sentir parlare anche alla radio, in approfondimenti condotti da immancabili esperti, la cui funzione sembrava proprio quella di assecondare fintamente l'analisi anticapitalista sul piano generale, per disarmarla nella sua azione immediata. Qualsiasi telefonata in diretta che accennasse anche solo a dei dubbi sulla vaccinazione o la notizia di un'antenna di telecomunicazione incendiata, invece, suscitavano reazioni scomposte e l'etichetta piglia tutto complottismo. Il complottista, nemico storico del movimento rivoluzionario, diventa d'un colpo nemico dello Stato. È stato sufficiente presentare il complottista come nemico della salute collettiva e il governo come suo garante, per quanto pasticcione, incapace o subordinato agli interessi di Confindustria. Sullo sfondo, come vedremo, si è coagulato in tutta la sua materialità un nodo irrisolto di tanti movimenti del Novecento, la questione dello Stato. Se non ho letto niente sul lockdown ieri, cosa dire sul coprifuoco oggi? Se non ho detto nulla sulle cure domiciliari negate, cosa dire sui vaccini? Così, mentre si infittiva la nebbia e si rafforzava la gabbia, ognuno ha battuto le strade in cui si sentiva più sicuro. Il contrasto della repressione per alcuni, il sostegno alle lotte operaie nella logistica per altri, le lotte contro la devastazione ambientale per altri ancora. Battaglie giuste e necessarie, sia chiaro, ma in qualche modo a lato del terreno su cui lo Stato e i tecnocrati avevano piazzato le loro batterie. Non vedere come gli intenti delle multinazionali farmaceutiche e del digitale siano resi possibili dalla funzione dello sviluppo tecnologico comporta un'enorme semplificazione che scagiona il sistema sociale nel suo insieme e fa ancora appello allo Stato, alla magistratura, a una nuova Norimberga. Ma pretendere che quelle stesse multinazionali rinuncino ai brevetti e trasferiscano le loro tecnologie ai paesi poveri è forse più realistico? E denota una comprensione maggiore di come funziona l'apparato industriale, privato e statale, delle tecnoscienze? Qualcuno di certo, un po' più avveduto sul rapporto tra Stato e capitalismo, auspica che a farsi carico della vaccinazione di massa siano dei comitati proletari, dal momento che le istituzioni borghesi non si possono affrancare dal potere di Big Pharma. Hanno tuttavia ragione gli stalinisti, per una simile impresa ci vuole lo Stato, ma più lucide di entrambi sono senz'altro quelle migliaia di persone, in larghissima parte donne, che sono scese in strada urlando: non siamo cavie. La maggior parte delle malattie che affliggono l'umanità richiedono soluzioni ben poco tecnologiche, come acqua pulita, cibo a sufficienza, salari decenti, tutti aspetti che lo sviluppo tecnologico non risolve, bensì aggrava, mentre ammalia con le sue promesse, imminenti ma in qualche modo sempre dietro l'angolo. Solo nel 2020 in Mozambico sono morti di fame 500.000 bambini. E qual è la priorità per certi pretesi internazionalisti? Portare a quella popolazione dei vaccini OGM, proprio ciò che vogliono gli eugenisti, nonché sterilizzatori di donne povere che hanno sviluppato il vaccino AstraZeneca. No, non portarle solo i vaccini, ma le tecnologie stesse per poterli sviluppare e produrre in autonomia, cioè impiantare centri di ricerca biotecnologica in cui ricercatori e tecnici altamente specializzati in intelligenza artificiale, in bioinformatica, in biologia molecolare, in nanotecnologia, eccetera, formino una nuova leva di personale locale, ai quali affiancare in 448 fabbriche high-tech dove produrre autonomamente i vaccini, fabbriche, va da sé, connesse a una potente rete digitale. In questa bella fiaba, il cui inconscio è quello dell'imperialismo benefattore, si fatti centri di ricerca e si fatte industrie rinuncerebbero, finita la vaccinazione, ai compiti per cui sono stati storicamente creati: accrescere la dipendenza energetica, agricola, sanitaria, economica, sociale, politica della popolazione locale da un apparato centralizzato ed eteronomo, il cui insaziabile motore estrattivista spreme gli umani, sterilisce la terra, provoca epidemie. Non sarebbe molto più pratico destinare i soldi dei vaccini all'allestimento di una rete di piccoli ambulatori di villaggio in cui curare tempestivamente i malati, invece di vaccinare indiscriminatamente milioni di persone? Certo che lo sarebbe, ma lo scopo del mercato biotech è proprio quello di rendere obsoleto e poco redditizio il lavoro prosaico di cura e di prevenzione. Se la recinzione delle terre comuni e la spoliazione delle ricchezze coloniali sono state le due fonti di accumulazione originarie del capitalismo inglese, le basi per lo sviluppo della manifattura e del macchinismo sono state fornite dalla potenza dello Stato britannico in guerra, prima con lo Stato spagnolo e poi con quello francese. Dalle necessità belliche nascono infatti sia la ferrovia sia lo sfruttamento delle miniere di carbone. L'elettricità si è sviluppata per produrre armi. Prima di illuminare le case private è servita per far funzionare le manifatture, anche di notte. Questo rapporto di implicazione reciproca tra potenza militare, sviluppo dell'industria e accelerazione della tecnica ha prodotto un salto, la tecnologia, cioè l'applicazione di conoscenze scientifiche sempre più specializzate a una produzione industriale che soppiantava via via tutte le forme comunitarie e non centralizzate di produzione. Le due guerre mondiali sono state in seguito il laboratorio di una nuova fusione tra ricerca scientifica, apparato militare, pianificazione industriale e burocrazia di Stato. Il secondo conflitto mondiale non solo ha aggiunto alla fusione anche i mezzi di comunicazione di massa, ma grazie alle gigantesche sperimentazioni belliche, mediche e tossicologiche ha dato il via a quella che si può chiamare tecnoscienza e alla sua forma politico-sociale, la tecnocrazia. differenza tra gli stati e del mastodontico programma di finanziamento scientifico che l'ha resa possibile è l'esempio più macroscopico di pianificazione statale di un impianto centralizzato, militarizzato e soprattutto fisso. Su quella produzione statale di energia si innestano sia altre infrastrutture fisse, come le linee ad alta velocità, sia i laboratori high-tech che sconvolgono di continuo forme e modi della produzione di merci, estrazione e lavorazione delle materie prime, assetti urbani, controllo del territorio, forme e modi della guerra. Questa accelerazione totalitaria dell'innovazione è esattamente ciò che è stato chiamato push tecnologico permanente. La pianificazione statale segue la stessa logica, tendendo anch'essa verso l'amministrazione tecnologica dei territori e delle popolazioni. Per rendersene conto, basta leggere i libri bianchi dell'esercito, istituzione pianificatrice per eccellenza. Siccome l'innovazione high-tech, dai droni ai robot killer, dal campo di battaglia digitale ai corpi dei soldati geneticamente aumentati, ha già fuso tra loro istituzioni della difesa e centri di ricerca, la direzione politica dei programmi è sempre più sottratta alla burocrazia militare, fissa come un impianto nucleare ed affidata ai dipartimenti interuniversitari, a loro volta sempre più legati alle esigenze dell'industria 4.0. I divulgatori mediatici del verbo tecnocratico hanno aspettato l'emergenza da Covid-19 per annunciarlo con entusiasmo. Lo Stato è tornato. È quello che milioni di persone hanno sperimentato durante la gestione dell'epidemia da Covid-19. Le gerarchie tecno-burocratiche, i cosiddetti esperti, non solo hanno provocato più che un buio epistemologico, una vera e propria paralisi cognitiva, una situazione temibile che richiama quel che succede nelle circostanze costruite apposta per deumanizzare i soggetti tramite la dissociazione di parole e cose, di linguaggio e mondo. Ma hanno contribuito anche a produrre una pletora di uomini forti, governatori pronti a bruciare con il lanciafiamme gli studenti che si assembrano per festeggiare la laurea, consulenti ministeriali che vogliono rendere obbligatoria la vaccinazione per tutti e punire per legge chiunque la critichi, chi dice che una prova dell'assenza di centri direttivi dell'emergenza sta nel fatto che Stato e Regioni si sono mossi in ordine sparso, ha riflettuto poco sugli effetti a spirale e a cascata che il comando tecnocratico ha sempre avuto nella storia. Prendiamo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal governo Draghi. Se vogliamo capire il progetto di società che persegue, cosa fondamentale non solo perché ci tocca da vicino, ma perché spiega assai chiaramente le tendenze dell'epoca in cui viviamo, dobbiamo buttare alle ortiche schemi interpretativi inutili e fuorvianti. Il PNRR, che si inserisce nel più ampio Next Generation EU, a sua volta versione ingrandita del programma europeo Horizon 2020, è un esempio esplicito di programma tecnocratico. La tecnocrazia è classista e antiecologica, senz'altro e al massimo grado, ma non tutte le politiche classiste e antiecologiche che hanno accompagnato l'intera storia del capitalismo sono parimenti tecnocratiche. La tecnocrazia è oggi l'organizzazione politica delle tecnologie convergenti, informatica, ingegneria genetica, nanotecnologie e neurotecnologie. Dei 50 miliardi di euro rubricati alla voce transizione energetica e digitale, ben 25 sono finanziamenti a fondo perduto per l'industria, soldi pubblici ai padroni, la continuazione delle ricette neoliberali. Questo dice e si dice il militante di sinistra. È un'interpretazione completamente errata, non solo perché tale affermazione non dice nulla sulla direzione in cui vanno quei finanziamenti: robotica, automazione, informatica quantistica, intelligenza artificiale, data science, eccetera, ma perché trascura il fatto che nella stessa direzione vanno i finanziamenti per ristrutturare l'amministrazione pubblica, la sanità, la scuola superiore, l'università. Far notare che l'industria e l'agricoltura 4.0 i padroni la fanno con i soldi nostri non è certo una sciocchezza. Lo è pensare che la distinzione tra privato e pubblico sia rilevante nel giudicare un programma statale. Soldi nostri sì, ma per espellerci dal mondo. Come è stato scritto, la dismisura dei tecnocrati cresce con i loro mezzi, più possono, più vogliono. Non servono complotti, basta attraversare il ponte dopo averlo raggiunto. Il PNRR sistematizza, con il pretesto di uscire dall'emergenza, tutto ciò che l'emergenza ha accelerato. Basta osservare con quale ottimismo i divulgatori scientifici, professione cui si promette un bel avvenire visto il repentino spuntare come funghi velenosi di appositi corsi di laurea e i master post universitari, annunciano che l'epidemia da Covid-19 ha fatto saltare le barriere culturali che ci separavano dal mondo a distanza. Certo, ci sono ancora dei talebani dell'esperienza fisica, ma di loro si incaricherà la politica del fatto compiuto, detta anche della terra bruciata, o tecnocittadini o clandestini. Stiamo ascoltando questa band inglese dei primi anni 80 che abbiamo anche ascoltato in tutti gli, così, gli inframmezzi durante l'intervento. Loro sono i Vice Squad e praticamente questa è una raccolta di tutti i loro singoli usciti più o meno editati tra l'81-80 e l'85 e ci ascoltiamo ancora questi Vice Squad. passaggio da una pratica come la variolizzazione alla tecnica della vaccinazione è un momento storico che evidenzia delle dinamiche politiche ricorrenti ogni qualvolta una nuova innovazione tecnologica ci piomba addosso, pretendendo di risolvere un problema che lo stesso sviluppo industriale ha contribuito a generare. L'attuale pandemia, le risposte messe in campo dagli stati e gli obiettivi che perseguono non sono che una loro riaffermazione. Se in un primo momento, di fronte ad epidemie fuori controllo, gli stati ricorsero alla messa a regime dei saperi popolari, come avvenuto per la variolizzazione, in un secondo momento, quando soluzioni tecniche più efficaci diventano disponibili, le vecchie pratiche vengono messe al bando. La vaccinazione, oltre agli indubbi vantaggi pratici inerenti alla minor mortalità e l'assenza di contagio a seguito dell'inoculazione, dava una possibilità di controllo maggiore, perché il metodo scientifico e i suoi strumenti non sono alla portata di chiunque. I preparati, dapprima rozzi, poi sempre più elaborati, erano direttamente nelle mani delle agenzie statali, dei medici e delle aziende produttrici. Non erano più liberamente accessibili alla popolazione, che anche volendo far da sé non avrebbe potuto. Il sapere popolare è espropriato, delegittimato e infine sostituito con un sapere alienato, assolutamente inaccessibile alle persone su cui poi verrà applicato anche a mezzo imposizione. Come detto, la domanda da farsi è: chi controlla una certa tecnica? A cui segue però adesso una certa tecnica, da chi è controllabile? Se nel caso della variolizzazione di Stato e delle prime campagne vaccinali il controllo era determinato burocraticamente dalla volontà dell'istituzione, nel caso ad esempio degli odierni vaccini geneticamente ingegnerizzati ciò non è più nemmeno necessario. La parcellizzazione e specializzazione del sapere di cui sono espressione sono la base stessa dell'inaccessibilità per gli individui che vi si sottoporranno. La tecnica diventa così uno smisurato strumento di potere nelle mani dei pochi che hanno le risorse per controllarla. La domanda da farsi di fronte al progredire della tecnica e a quella che si suol chiamare innovazione tecnologica, prima di valutarne i benefici immediati, è possibile autogestirla? Una comunità di persone libere ed uguali sarebbe in grado di garantire la sua produzione, conservazione, gestione, smaltimento in modo autonomo e sulla base di criteri da lei scelti, escludendo che nella filiera in questione esistano momenti di sfruttamento e alienazione? Per gli attuali vaccini pare evidente, visti i finanziamenti messi in campo per il loro sviluppo, i laboratori da cui escono fuori e gli stabilimenti in cui sono materialmente prodotti, che la risposta sia negativa. Le possibilità di autogestione sono uno, non l'unico, dei principi su cui determinare il rapporto con gli strumenti che impieghiamo. Se questa possibilità non si dà, essi si alieneranno e saranno loro a determinare noi, piuttosto che il contrario. Nessun valore socialmente condiviso sarà infatti in grado di determinarne gli obiettivi, ma saranno loro e la logica tecnica di cui sono espressione a decidere ciò che è bene e ciò che è male. Non si tratta assolutamente di recuperare strumenti di una volta per risolvere dei problemi attuali, per cui peraltro non sono stati affatto pensati. Non è possibile trasporre ad altre malattie il caso del vaiolo con le sue specificità e si badi bene ad affrontare con inferenze azzardate e semplificanti problemi assai complessi come quelli dei patogeni. Così pure non si tratta di cercare uno spirito necessariamente sano nei rapporti, comunque preservatore di poteri ineguali e gerarchici delle società tradizionali, né si tratta di coerenza e di pretendere da chi che sia la rinuncia a qualcosa di nocivo, sì, ma da cui questo mondo ha reso terribilmente dipendenti. Si tratta semmai di individuare nelle modalità con cui sono stati affrontati certi flagelli alcuni elementi utili ed enucleabili per immaginare soluzioni a problemi impellenti dei nostri giorni, per provare a rispondere alla domanda principale che questi tempi ci impongono di fronte a ciò che sta accadendo: come fare senza Stato? Si tratta di immaginare un mondo diverso che, partendo dalle macerie di quello che avremmo auspicabilmente distrutto, andrà costruito. From dehumanization to arms production for the benefit of a nation or its destruction. Power is power, it's the law of the land. Those who live for death will die by their own hands. Life is no ordeal if you can come to terms. Reject the system which dictates the norm. From dehumanization to arms production for the benefit of a nation or its destruction. It's your choice, peace or annihilation. dream of death. Annihilation, annihilation, annihilation. Self-destruction, destruction, destruction. Streets are on fire, death in our way. Scars of a truth, bodies are raised. You go on preaching, lish summer, while you are paying for extraction. This is murder, annihilation, annihilation, annihilation. Great destruction, destruction, destruction. Streets are on fire, death in our way. Scars of a truth, see this before. Annihilation is one. That means the end. I'm against that war to end our war deep. Extreme offense. You want the people lost in your mouth. You wanna jump, don't save your life. Annihilation, annihilation, just the same. I'm the answer, gonna run away. Ma che cos'è il Covid alla fine dei conti? Guarda caso, una malattia dell'apparato respiratorio si diffonde e si sviluppa di più nelle regioni più inquinate, dove esiste una maggiore concentrazione non solo di persone, ma anche di animali di grossa taglia, a loro volta ammassati in stalle di centinaia di capi, con migliaia di tonnellate di deiezioni che inquinano aria e suolo, dove la gente si deve spostare su mezzi affollatissimi, per decine di chilometri e per ore ogni giorno, dove il lavoro è svolto in spazi chiusi, a strettissimo contatto coi colleghi, vedi call center. Guarda caso, il clima si riscalda e vedi mo, aumentano le malattie infettive. Guarda caso, se si fermano gli impianti e l'aria migliora, diminuiscono i contagi, sarà strano? Guarda caso, hanno chiuso scuole, musei e biblioteche, ma hanno mai fermato impianti inquinanti che producono beni del tutto inutili, anzi dannosi, perché generano rifiuti non smaltibili e scaldano ulteriormente il pianeta in nome della conservazione dei posti di lavoro. Vogliono vedere fino a che punto siamo disposti a sopportare e quanto vogliamo aspettare prima di staccare la spina. Prove tecniche di dittatura per non dirci che se non torneremo alla terra e non faremo saltare i ceti dominanti, questo virus non è che l'inizio. Vogliono ridurci ad accettare milioni, forse miliardi di morti per mantenere al potere il ceto dominante e i suoi modelli di vita a spese di quelli che non contano niente. Ma il pianeta tenterà in ogni modo di difendersi da chi vuole distruggerlo, eliminando la causa di disturbo, cioè noi. Non solo, questa sarà soltanto la prima di una lunga serie di epidemie. Il pianeta, messo sotto pressione, cercherà in tutti i modi di espellere gli elementi di disturbo, ovvero gli umani, con una serie di sistemi che possiamo definire guerra biologica, fra cui la diffusione di epidemie su larga scala, che colpiranno particolarmente quei luoghi che feriscono di più il pianeta, le metropoli e le sedi di allevamento intensivo. Abbiamo una sola scelta: spazzare via quelli che vogliono impedirci di girare l'interruttore. Al più presto. Who E ci stiamo ascoltando in sottofondo, e abbiamo anche ascoltato già un paio di brani durante l'intervento precedente, di questa band storica californiana che è esistita nei primissimi anni 80, ovvero i Crucifix, e questo era il loro unico album, Dehumanization. E anche inoltre volevo dire che siamo qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, e questo programma è Jardins Magnetics, e che siamo ormai quasi al termine. Il programma inizia ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 e fino appunto alle 21:30. E inoltre volevo leggervi i contatti, che se volete appunto contattarci per questa trasmissione, allora se volete anche scriverci tramite posta elettronica, la mail è liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org. inoltre, se volete scriverci nella forma cartacea, potete scrivere alla casella postale 129, intestata ad Associazione Senza Sbarre, Trieste Centro 34121 Trieste, ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121 Trieste. E inoltre, se volete riascoltare questa trasmissione o comunque le precedenti, quelle già avvenute nelle settimane scorse, potete andare nel blog, che si chiama jardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto, jardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì, e vi lascio con questo ultimo brano, o anche diciamo penultimo, di questi Crucifix, dal loro album Dehumanization, datato 1983. Ciao a tutti e al prossimo giovedì. Thinking you're my freedom, fighting for them.